fai la vita in la taverna, dalla cariona notte di, e perché la storia vera mattina sera alla son manca me, e la canzone del despera de quel che non può più, e la canzone del povero che desta al mondo in un po' più. Fai la vita ma tirar avanti, alle la fatica de morir, e stiappa la bomba e crepa la veccia, i moran col can a sciopan camia, alle la canzon del dispera de quel che non può più, e la canzon del povero che della vita in una povoia. Del povero che se ne frega i sombati badotti del perdono. Grazie.